Radio 24. Libera la voglia di fare. Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Va in corso per la gomitata di Bonucci. Rosi a terra con ferita al volto. Cartellino è rosso. Viene espulso Bonucci. Gomitata al volto. Bonucci incredulo. Espulsione diretta e Milan in 10 uomini. Il Milan perde il suo capitano. Ci sono tante cose importanti in questa domenica pomeriggio, in generale in questa domenica che di fatto ha consegnato il moto mondiale a Marquez. Poi ne parleremo dopo le 18:30 in attesa di vedere ad Austin se anche Hamilton fa suo il mondiale della Formula 1 o se Vettel e la Ferrari riescono a prolungare questa stagione. Dicevo, ci sono tante cose importanti. C'è la vittoria della Roma a Torino, ad esempio. La Roma continua a vincere su campi importanti, l'ha fatto a Bergamo con l'Atalanta, l'ha fatto anche questa volta con un gol di Kolarov. E la Roma è assolutamente in corsa, anche se non sembra, perché ha una partita in meno. Però l'avete sentito, la notizia era chiusa tutta lì, nella follia di Bonucci che al 25esimo del primo tempo ha lasciato in 10 uomini il Milan, che poi ha pareggiato 0-0 con il Genoa. Milan che non vince dal 20 settembre in casa contro la Spal, ha fatto un punto nelle ultime 4 partite, è potenzialmente a 9 punti dalla zona Champions League, a 6 punti in meno rispetto a un anno fa, è in piena crisi. E allora noi adesso andremo tra pochissimo a San Siro dal nostro Dario Ricci con i suoi ospiti. Ciao Carlo. Ciao Giovanni, un'ecatombe. Senza girare troppo intorno, viste le cose dette anche ieri sulla stampa da Fassone a proposito del futuro di Montella, il tema è: qual è la ricetta? Via Montella subito? Oppure, siccome le responsabilità sono più ampie di quelle del tecnico, si può ancora pensare di dare del tempo, si può arrivare domenica prossima alla sfida con la Juventus? 800 24 00 24, i numeri sono impietosi. 800 24 00 24 per prenotarvi ed intervenire, saremo insieme fino alle 19, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e WhatsApp. Numeri, la fotografia è quella. I numeri sono impietosi, cioè il trend del Milan è questo. Anche oggi una partita che peggio probabilmente non si può, un punto in casa con il Genoa non è accettabile dopo 3 sconfitte. È chiaro che adesso sul banco degli imputati c'è Bonucci, come è dall'inizio della stagione, si è preso soldi, responsabilità, fascia, ci ha messo la faccia, e questo non bisogna dimenticarlo. Però in questo momento è Bonucci è la fotografia del Milan, cioè è davvero il simbolo del Milan, un giocatore, una squadra cui non ne va bene una. Allora, abbiamo lanciato su Twitter il sondaggio, la ricetta, via Montella subito, fiducia a Montella, prime centinaia di voti che arrivano, via Montella subito 57%, fiducia almeno fino alla partita con la Juve 43%. Qualche messaggio che sta arrivando, 349 238 6666. Bonucci sta perdendo la sua scommessa personale contro la Juve, faceva meglio ad andare all'estero. O ancora, il Milan abbia il coraggio di mandare a casa Montella e ingaggiare l'usato sicuro Blanc, Gattuso non è all'altezza. Chi? Blanc. Il francese Blanc. Ancelotti è una minestra riscaldata. Allora andiamo a San Siro, Dario. Eccoci qua Giovanni, ciao Carlo. Ciao. Con Franco Ordine. Ciao. Beh, 0-0 Franco, sul banco degli imputati prima del Milan e il suo capitano Bonucci, perché l'episodio del 24esimo minuto che avete già ricordato, la gomitata a Rosi e l'espulsione tramite VAR, ha in qualche modo deciso la partita, se non dal punto di vista tecnico, dal punto di vista psicologico, perché era un Milan che comunque, pur nella sua imperfezione, stava un pochino escendo fuori. A quel punto è un po' cambiato tutto il senso della partita. Allora, intanto, così per paradosso, bisognerebbe ringraziare Bonucci, perché ha consentito a Montella di togliere Çalhanoğlu, perché il Milan già giocava in 10, sì. E quindi questo è un fatto positivo della giornata, del pomeriggio. Ha anche semplificato un po' la costruzione del gioco. Il secondo paradosso è che il Milan in 10 ha giocato molto meglio che in 11. Magari non è un paradosso, Franco? Come? E magari non è un paradosso, il Milan senza Bonucci ha come avuto una reazione di orgoglio. Ma poi ne parliamo di Bonucci, no, vai coi paradossi, vai. Sì. Poi devo dire, dal punto di vista, diciamo, senza entrare nel paradosso, diciamo che oggi un po' è stata bocciata, il Milan alla fine ha ricevuto gli applausi secondo me meritati, e un po' secondo me è stata bocciata il mercato, la campagna acquisti, perché Çalhanoğlu è un disastro atomico, Bonucci ha combinato quel che ha combinato, però poi su quello vorrei discutere e vorrei raccontarvi anche come la penso a proposito della VAR e dell'arbitro. E poi infine, dal punto di vista squisitamente come dire, tecnico, si capisce chiaramente che in questa squadra per il momento funzionano e vanno meglio quelli della passata, dell'antico regime, Zapata, Romagnoli quando è entrato, soprattutto Suso. Non è così strano, però Ciccio, non è così strano che in una squadra perché in una squadra totalmente nuova non è così strano che vadano meglio quelli della passata stagione. Almeno sanno un po' su che pianeta vivono, no? Conoscono l'allenatore conosce loro. Ma non è quello il punto. Il punto è che è proprio la qualità di questi che mi sembra superiore a quelli di appena arrivati. Allora, io voglio chiedere a Dario Ricci, col conforto anche di Franco Ordine, in 10 secondi, Montella finisce oggi o non è un tema d'attualità? No, non è assolutamente un tema d'attualità. Credo che ne riparleremo a fine mese dopo la Juve. Quindi Dario? Domenica, perché poi c'è l'infrasi. Sì, no, non può esserlo oggi, visto che comunque poi quello di Bonucci è un grande alibi, no, per tutti. Detto questo, si è semplificato un po' nella costruzione del gioco, si è semplificata un po' la manovra, perché almeno Biglia ha preso un po' in mano il poco che c'era da prendere, perché sai, là si è creata una situazione tipo anzi Müller Beccalossi, per passarsi la palla. Ultima osservazione, non so se la pensate come me, a proposito del VAR, l'arbitro ha mancato di ammonire Rosi, perché il fallo comincia con la trattenuta della maglia di Bonucci da parte di Rosi, e anche in questo caso è stata, diciamo, tra virgolette, esaminata solo la seconda parte, non tutta la parte completa dell'azione. Sì, può essere, il che non sposta che Bonucci si è dimostrato completamente in confusione, perché nell'era del VAR quello che ha fatto è impossibile che sfugga all'occhio della telecamera, Franco, il che secondo me conferma il piano inclinato. Sì, no, hai perfettamente ragione, Rosi poteva essere ammonito. Stiamo parlando di due cose diverse. Poteva essere ammonito, però doveva essere ammonito. Però io voglio lanciarvela lì come provocazione, e la domanda è se secondo voi è un caso che fuori Bonucci il Milan abbia una reazione d'orgoglio. No, io penso che sarebbe accaduto anche se fosse andato fuori Zapata piuttosto che Borini, tanto per citarne soltanto due così a caso. Il problema vero, perché anche contro l'Inter nel secondo tempo il Milan ha una reazione d'orgoglio, di rabbia, più diciamo di pancia che di testa, che di tecnica. Quindi questo non assolutamente non è una novità. Il punto vero è che avesse avuto un centravanti diciamo presentabile, il Milan avrebbe fatto due gol anche in 10 contro 11. E anche Kalinic è impresentabile. Beh, oggi ha giocato veramente male. Beh, ragazzi no. Oggi ha giocato male. Si è preso oggi, anche oggi due fischi nel momento del cambio con Cutrone. Oggi è andato male. Sì, tra l'altro è uscito, è entrato Cutrone, è rimasto seduto André Silva, il che conferma quello che diceva prima Franco Ordine sul fatto che oggi sia stata una caporetto per il mercato estivo del Milan. Io avrei anche un'altra domanda da fare, un po' cattivella, un po' velenosa, e cioè perché dopo le ultime partite Franco esca Musacchio, esca Romagnoli dalla linea 3 e rimanga dentro Bonucci, che dei tre è stato nettamente il peggiore nell'ultimo mese. Sì, ma perché insomma è quello attorno al quale è costruita la difesa, quindi questo assolutamente non è assolutamente una domanda maliziosa, perché riceve una risposta di natura tecnica. Il problema è che io prima ancora della gomitata lo avevo visto in grande deficit dal punto di vista fisico nei confronti di Galabino, che non è sicuramente una freccia, eppure partivano insieme e arrivava sempre primo l'altro, quindi questo obiettivamente non è un buon segnale. No, è un segnale di crisi. Allora, saluto per il momento Dario Ricci e saluto anche Franco Ordine, alla prossima. Ciao Franco. Ciao ragazzi. però ovviamente restiamo su San Siro, perché aspettiamo di capire, aspettiamo anche la voce di Montella oltre a quella di Francesco, di Mihajlovic, cerchiamo di capire se, ma Franco Orri ci ha detto che non succede nulla oggi pomeriggio alla panchina di Montella. Poi leggiamo anche cosa ha detto ieri Fassone a proposito del futuro di Montella in caso di non vittoria contro il Genoa. C'è Roberto da Brescia che è pronto, ciao Roberto. Ciao. C'è il traffico, però dai, un minuto di traffico, ripartiamo da Roberto. Convocati. Tutti convocati. Allora, vi leggo qualche messaggio che sta arrivando. 349-238-6666. Cambio di modulo immediatamente. Il caro vecchio Silvio che imponeva la difesa a 4 faceva benissimo. Poi un altro amico che scrive: ma il Milan non può giocare con il 4-3-3, con il 3-5-2 non ci azzecca nulla. Poi Vincenzo della Corea fa il nome di Hiddink, che è uno dei nomi fatti per l'eventuale sostituzione. Fabio: mandi via Montella e chi prendi? Brocchi: no. Ci sono altre soluzioni. Allora io la dico, e cioè io sono contro l'idea del licenziamento di Montella, ma se non esiste nessun tipo di reazione e se non esiste rapporto con altre parti della società, è anche arrivato il momento forse di qual è, trarre qual le è il conseguenze fondo, secondo te? Secondo me siamo già al fondo, secondo me allora siamo già al fondo. La soluzione qual è? Probabilmente è prendere un allenatore che provi a dare una svolta. Roberto da Brescia, 800 24 00 24, vai Roberto. Sta per arrivare Montella, intanto i microfoni di premium. Relativamente al Milan non è un problema di moduli, secondo me non è un problema di giocatori fino a un certo punto, è un problema di progettualità sbagliata quest'estate. Con problemi strutturali societari, finanziamenti, fiduzioni che non arrivavano, il fatto di dare una fascia a un giocatore che è stato 5 anni in un'altra squadra, sono creati tutti i presupposti per creare questo autogol sostanzialmente, dal mio avviso. Quindi non vedo una gestione dall'alto manageriale da questo punto di vista. Sì, evidentemente ci sono anche errori che è inutile nascondere, e diceva bene Franco Ordine, Roberto, Carlo, cioè oggi di fatto c'è certificato che una buona parte del mercato, almeno in questo momento, non è funzionale e non dà risultati. Il mercato ha rivoluzionato una squadra, abbiamo detto mille volte che mai si era vista una squadra uscire in questo modo da un mercato, cioè il Milan è una cosa totalmente nuova. Probabilmente ci voleva ci vorrebbe un allenatore diverso, con idee più chiare, magari con un po' più di carisma, magari anche più in sintonia con il resto, proprietà. Non tanto la proprietà, con Fassone, soprattutto con Mirabelli. C'è Montella, microfoni di premium, lo sentiamo. Montella: sì, è un momento particolare di risultati, soprattutto negli ultimi. Io credo che in queste ultime tre partite di campionato sia successo un po' tutto, no? Nelle sconfitte la squadra ha sempre dimostrato di essere presente, oggi in 10 l'ha fatto ancora di più, l'ha fatto nella continuità, ogni calciatore ha dato ogni briciola di energia, e mi dispiace solo per questo, o principalmente per questo, non aver vinto la partita. Ci credo che la squadra anche in 10 sia stato superiore all'avversario, abbia creato più dell'avversario, che è un momento che ci va così, ma questo ci ha unito ancora di più, perché ho visto uno spirito che dobbiamo riportare avanti anche domani, anche dopodomani e nelle prossime partite, perché con questo spirito credo che i risultati arriveranno. Senta, le chiedo, Bonucci ha avuto modo di spiegarle cosa è successo, lei come giudica l'episodio, il gesto di Bonucci, e se Bonucci ha già avuto occasione di giustificarsi davanti a lei, davanti allo spogliatoio, chiedere magari scuse in un certo senso da capitano? Ma lui intanto è rimasto sorpreso sia nell'episodio sia anche a rivederlo. Non c'è un'immagine chiara, no? Chi fa calcio lo sa, quando sei marcato in area cerchi di liberarti. Lui si vede chiaramente che non guarda mai l'avversario, se uno è più alto e c'ha poi i compiti più alto dell'avversario, questo non penso possa essere un deterrente. Dispiace, sta succedendo veramente qualsiasi cosa, e questo sta mettendo veramente alla prova la nostra come dire, la tenuta mentale, no? Sì, qui lo prende in questa immagine qua, ma però non lo guarda mai. Di solito ci sono gli... Montella sta guardando la moviola, magari prende il petto dell'avversario, ce ne sono tanti. Io credo che adesso che la VAR ci stia dando una grossa mano, anche noi siamo meno nervosi in panchina, però si stia diventando quasi più una valutazione televisiva piuttosto che di campo. Vabbè, insomma, questo Montella sul VAR, io non sono d'accordo. Torniamo a San Siro, Dario. Eccoci qua, Era da cartellino rosso, adesso. Poi si può discutere se anche Rosi potesse prendersi il cartellino giallo in una lettura complessiva, ma Bonucci fa una follia. Dario? Eh sì, stavamo sentendo il commento di Montella con Arianna Ravelli, inviata del Corriere della Sera. Arianna, beh, oddio, un po' paradossali queste parole di Montella, perché almeno le immagini sembrano evidenti in questo caso sull'espulsione di Bonucci, anche se poi il VAR non manca mai di non darci l'occasione per fargli un processino. Tu come l'hai vista? Ma diciamo che da un punto di vista filosofico Montella può anche aver ragione, nel senso che un conto è la televisione, un conto è il campo, perché dalla TV non si danno, non c'è mai la sensazione dell'entità del contatto. Detto questo, non c'entra nulla col caso però di cui stiamo parlando, cioè questo è un'espulsione in ogni modo. È vero che, diciamo, probabilmente il fatto che Rosi si sia aperto sopracciglio fosse una maschera di sangue ha sicuramente aiutato a prendere questa decisione. Non so se l'avrebbero presa anche senza questa drammatizzazione ulteriore, però detto tutto questo mi sembra che nessuno possa discutere questa espulsione. Allora vi leggo un messaggio, è simbolo della confusione totale. Simbolo che il quale a sua volta è simbolo della confusione del Milan. Sì, però secondo me anche le parole di Montella sono simbolo di una certa confusione. Faccio mio un messaggio che ha scritto il 349-238-6666 Alberto, che saluto. Per Montella il Milan gioca sempre bene, mai autocritica, sempre solo episodi. Come me la commentate, no, Dario, Arianna? Posso aggiungere, Carlo, appunto, sì. Volevo capire dallo stadio, abbiamo sentito le parole di Montella. Vabbè, siamo alla negazione dell'evidenza sulla espulsione di Bonucci, televisione o non televisione, dà una gomitata in faccia all'avversario, viene espulso in maniera sacrosanta. Montella ha detto, oggi tutto bene, bello spirito, voglio rivedere questo Milan. Allora, qual è il risultato del campo al di là dell'espulsione di Bonucci? Siamo alla negazione dell'evidenza anche qui? Ma la sensazione, dico la mia e poi lascio la parola a Arianna, è che la volontà ci sia. Non è una squadra che gioca ancora contro il suo allenatore, dico ancora perché evidentemente in questa confusione nessuno ha ben chiaro quale potrebbe essere il prossimo step, no? Però manca quasi tutto il resto, no, Arianna? Sì, sì, assolutamente. Cioè, se la domanda è la squadra è unita ed è con l'allenatore, la partita di oggi ci ha detto di sì. L'unica cosa che non è mancata è stato un grandissimo impegno, insomma, il cuore. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Montella, è una squadra di giocatori anche impauriti. Non credo che possa venire a dire a noi che fanno schifo, insomma, onestamente. È chiaro che è un allenatore che in questo momento in un momento in cui sta andando anche tutto male, cerca di evidenziare e sottolineare le poche cose buone che vede. Questo non mi sembra che, voglio sperare che poi nelle analisi che fa col suo staff, con i giocatori e società, non dica esattamente le stesse cose che viene a dire a noi. Dopodiché i limiti di questa squadra ci sono, sono tanti, c'è una certa confusione di fondo e non tutte le scelte anche dell'allenatore convincono. Quest'albero di Natale, quest'albero di Natale che aveva proposto inizialmente con Çalhanoğlu e Suso a supporto di Kalinic, molti ci hanno visto già in controluce l'Ancelotti che fu e che magari chissà, però insomma molto per dirti, in controluce, un po', no? La citazione è stata quella, ecco, anche perché gli interpreti erano un po' diversi. Esatto, appunto, gli interpreti erano diversi e l'esito anche. No, credo che, non lo so, è una scelta iniziale che ha stupito tutti. Non erano arrivate in settimana queste avvisaglie, poi per carità magari abbiamo sbagliato noi evidentemente. C'è stato un insistere su Çalhanoğlu, forse nel tentativo di cercare anche qui una svolta che non è arrivata, e la squadra era molto bilanciata, almeno sulla carta molto offensiva, e poi vabbè, poi l'espulsione di Bonucci ha ricambiato tutto, no? Arianna, ma sì, abbiamo capito che oggi non succede niente, insomma ci pare di intuire quello, ce l'ha detto Franco Ordine, sì, ce lo sta raccontando Dario Ricci, credo che anche tu lo confermi. La domanda però è questa: non si fa niente perché fra tre giorni il Milan è in campo con il Chievo e poi c'è la Juve, e di fatto è una sentenza ormai scritta e rimandata, cioè si va avanti con Montella a prescindere che accada oggi o fra otto giorni, oppure Montella ha ancora in mano il suo destino? No, beh, siamo già arrivati in una fase in cui solo il campo può stabilire i destini delle persone. E è chiaro che anch'io l'ho scritto, lo penso, lo ribadisco oggi, credo che fino alla Juve assolutamente non succeda nulla, ma penso anche che questa, in realtà i principali sostenitori di Montella sono i suoi dirigenti, che se ne dica nonostante qualche pirotecnico botta e risposta, perché tutti vogliono continuare questo progetto tecnico per mille ragioni, perché sarebbe un fallimento abbandonarlo, perché i piani B non convincono assolutamente, perché pensano tutti che si possa arrivare a una svolta. Quindi, anche perché dopo preparatore atletico e allenatore la testa successiva sarebbe al piano più alto a rotolare. Quindi sì, il senso beh, è, certo, rimaniamo insieme ma non ci amiamo più, perché non abbiamo alternative. Fallisce, è questo. Un po' per tutte e due le cose, un po' perché si spera che veramente la svolta arrivi e un po' per convenienza sicuramente, quindi un po' per convinzione, un po' per convenienza. In questo momento non è neanche tanto importante se è più la convenienza o più la convinzione, no. Il problema è che qualcosa deve smuoversi, e poi è evidente che se però si perdono tutte le partite e se cosa il campo detterà al di là delle convinzioni o delle convenienze, yeah, sì, perché certo, poi certo. Vince quello. E questa era la famosa ricetta di Gagliani: se poi uno le perde tutte. Grazie Arianna. Ciao. Esatto. Grazie ad Arianna Ravelli, Corriere della Sera. Dario, per chiudere, se hai notizie dello stato della temperatura di Fassone Mirabelli, che abbiamo visto perplessi in tribuna. Direi che adesso la temperatura è abbastanza glaciale dal punto di vista della società. Mi sembra che si stia prendendo, cioè, il momento anche di un ragionato silenzio, perché di parole magari avventate ne sono state fatte molte. Chiaramente l'espulsione di Bonucci oggi, come dicevamo prima, è anche un po' un grande alibi, e per paradosso regala anche tempo a Montella, perché comunque il Milan che aveva disegnato, per quanto inatteso e eccentrico, si è visto poco, perché poi Çalhanoğlu è sostituito da Romagnoli, quindi l'albero di Natale ha perso gli suoi addobbi ben presto. È arrivato un pareggio che, come abbiamo detto, dimostra che la squadra quantomeno è ancora con l'allenatore, e sì, questo è comunque un punto di partenza. Poi, sì, ma temo anche sia un punto d'arrivo, quando ti trovi nella situazione del Milan e con le altre davanti che corrono. Poi magari facciamo due conti sulla tabella che ieri Montella ha detto non esistere, ma che qualcuno dalle parti di Milanello fa, e cioè sul fatto che servano 72 punti per il quarto posto, che vorrebbe dire almeno 36 alla fine del girone d'andata, e magari ci facciamo, proviamo a farci due proiezioni, due conti. Grazie Dario. Grazie a voi. Grazie a Dario Ricci. Riusciamo a sentire Di Francesco? Lo prendiamo all'inizio, microfoni di Premium Sport, vittoria pesantissima quella della Roma, poi dopo le 18 parleremo anche delle romane. Di Francesco. Sì, in un campo non facile, anche il terreno di gioco non era al meglio, però la squadra, nonostante non siamo stati lucidissimi nell'ultimo passaggio, nella scelta finale, abbiamo quasi sempre tenuto in mano la partita contro una squadra che in casa darà fastidio sicuramente a tante altre squadre. Senta, lei, questo di Francesco, ci torniamo dopo le 18 sulle romane. 800 24 00 24, un minuto, andiamo a Udine, c'è Pierluigi Pardo che racconterà Udinese Juventus, e vi diamo anche le formazioni ufficiali. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Tutti convocati. Innanzitutto noi abbiamo fatto tre trasferte e abbiamo subito 5 gol. Quindi domani noi dobbiamo porci un obiettivo, quello di non prendere gol. Bisogna affrontarla una per volta e soprattutto bisogna fare dei punti, perché abbiamo già perso 5 punti per strada e siamo in un momento delicato, ma delicato anche perché abbiamo dei giocatori che devono recuperare la condizione. Bisogna raccoglierci, lavorare bene come squadra, mettere da parte le bellezze estetiche della partita, ma in queste 4-5 partite che ci rimangono bisogna portare a casa più punti possibile. Questo Allegri ieri, insomma, a Udine non gli interessa giocare bene, ma serve vincere, e non ha torto, anche se ieri da Napoli è uscito il risultato che lui sperava, cioè il pareggio. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, come va? Non male, dai, dacci le formazioni e poi vediamo se cogli la conferma e l'anomalia della Juventus. Ma allora, la formazione della Juve è abbastanza confermata rispetto alle previsioni di stamattina, quindi davanti a Buffon difesa 4 con Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alessandro, Pjanic e Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandžukić, Higuaín. L'unico dubbio poteva essere Cuadrado, Douglas Costa del posto da, diciamo, esterno di destra offensivo, e alla fine è stato scelto Cuadrado, ed è insomma in qualche modo la dimostrazione del fatto che è la Juve dei vecchi, la Juve non di quest'ultima campagna acquisti, con i giocatori arrivati quest'estate che sono un po' in ritardo. Nell'Udinese davanti a Bizzarri ci sono Samir, Danilo, Nuitnik, Aliadnan, Fofana, Altres, Rianzo, De Paul e poi Lopez e Perica, che sono i due attaccanti. E Perica è un po' una sorpresa, evidentemente c'è un po' di coraggio in più da parte di Delleri rispetto alle previsioni della vigilia. Secondo te Allegri è contento di quello che ha visto ieri sera a Napoli, al di là che è uscito il pareggino che era il risultato richiesto? Le inseguitrici sono tutte contente, è inutile girarci attorno, perché comunque soprattutto la vittoria del Napoli poteva essere uno strappo importante, una fuga importante, invece il pareggio dà la possibilità alla Juve, ma anche alla Lazio stasera, in qualche modo anche alla Roma che ha vinto nel pomeriggio, di riavvicinarsi, quindi assolutamente sì, a patto che la Juve torni a essere Juve, insomma. Il dato secondo me più interessante dei 1000 dati che abbiamo preparato, cioè della telecronaca, è che nelle ultime due partite la Juve ha subito in campionato due gol ed è successo solo 8 volte nelle ultime 61, ma è successo quest'anno in 8 partite, quindi e due volte consecutivamente, quindi il problema è chiaramente difensivo, poi magari è un problema più di equilibrio della squadra, però il problema lì dietro c'è e vedremo se la partita di oggi darà un segnale in questo senso. Sì, deve dare segnali anche ovviamente Pierluigi Pardo che sta per fare la telecronaca su Premium Sport e quindi sentite quello che sta succedendo a Udine in questo momento, dove c'è tutto esaurito, dove c'è grandissimo entusiasmo. Risposte, poi lasciamo per Luigi Pardo e apriamo anche a voi la discussione. Risposta che la Juventus deve dare, e oggi giocano tutti, anche in alcuni uomini segnalati in crisi. Io li metto in fila: Higuaín, Alessandro, Rugani che torna dopo 5 panchine consecutive, Dybala 4 gare senza gol. Dybala sappiamo che non segna dal derby col Torino, quindi da un mese praticamente. Higuaín ha dei numeri normali, no? Da attaccante super, non da crack. Sì, ci sono un po' di problemini, poi ovviamente la stagione è molto lunga. Io sono tra quelli che pensa che la vera anomalia non sia stata nei 5 punti persi dalla Juve in 8 giornate che ci possono stare, ma nel ritmo incredibile e nella prova di forza che il Napoli ha dato fino a questo momento, e questa considerazione rimane nonostante il pareggio di ieri, quindi questo è un po' il tema secondo me. Però è ovvio che oggi la Juve non può sbagliare, oggi c'è un solo risultato, perché se non dovesse vincere qui a Udine si aprirebbe una mini crisi. Ah sì, assolutamente, sì, grazie scuro. Pier, buona partita. Non ricordo come è andata la schedina. Ah no, hai ragione, hai vinto con pieno merito, già finita, ha vinto già con pieno merito, però vedi la superiorità. Hai vinto con pieno merito, non è che sto ad attaccarmi al VAR, agli episodi. Ormai siete stucchevoli, sembrate. Mi ricordo il signor Centa l'altro giorno. Siete stucchevoli, siete due bambini dell'asilo. Hai sentito, Pier, che non cade Montella, non c'è il sangue, anche se il risultato di oggi insomma mette ulteriormente in difficoltà il Milan. cade Montella, ma cade il Milan in questo momento. La scelta di tenerlo e di dargli forza, secondo me, è una scelta saggia e logica, perché la squadra ha cambiato così tanto, e cambiare un allenatore dopo 9 partite sarebbe abbastanza incredibile, però è evidente che non c'è alternativa in questo momento, Pier. Non c'è alternativa in questo momento, ma soprattutto forse le alternative non sono poi così tanto all'altezza, però è evidente che le cose così non vanno e le responsabilità sono di tutte, di tutti, ovviamente anche dell'allenatore. C'è qualcuno secondo me più responsabile di altri, ma avete tempo domani di parlarne. Grazie Pier. A domani, ragazzi, Pierino. Ciao. Pier, 800 24 00 24. Sì, ragazzi, è ancora oggi, credo sia la seconda partita consecutiva, Juventus che inizia senza nessuno proveniente dal mercato di quest'estate. Ha tempo di inserire e qualcosa, tempo di inserire. siamo arrivati quasi a novembre. Questo secondo me è un tema, abbiamo parlato oggi della caporetto del mercato del Milan, ovviamente stiamo ragionando su piani completamente diversi, però se voi mettete in fila il minutaggio dei nuovi acquisti della Juventus, incidono solo a centrocampo, dove Matuidi è il primo per minuti giocati e Bentancur il terzo nel reparto. In difesa Ouedes e De Sciglio sono praticamente spariti. Non dimentichiamo l'assenza, però, In attacco Douglas Costa è il quinto dopo i quattro titolarissimi, e l'altro nuovo acquisto è addirittura il sesto. Allora, saluto Vittorio Reggia. Ciao Vittorio. Buongiorno a tutti. Ciao. Voi. Se vuoi poi ripartiamo da qui, però c'è Vincenzo da Caserta che ci sta aspettando all'800 24 00 24. Vincenzo, dai. Salve, buonasera. Vai. Salve, devo fare due considerazioni sulla Juventus. Uno, scusate, il nome che mi mancava era ovviamente Bernardeschi, anche oggi in panchina. Prego, Vincenzo. Allora, uno per quanto riguarda la difesa, che per me il problema della difesa sorge dall'anno scorso, cioè dalla fine del campionato dello scorso anno. Basta ricordare come finite sia la finale di Cardiff e poi le ultime partite che la Juve sembrava aver mollato. Poi per quanto riguarda gli infortuni, per me è un problema che riguarda l'età avanzata della squadra, perché comunque la Juve punta su giocatori vecchi, e per me il fatto che si presenta oggi ad Udine con 16 soli giocatori è un problema di età. Sì, oggi in panchina sei uomini in movimento più i due portieri, Szczęsny e Pissoli. Facciamo rispondere a Vittorio Reggia. Vittorio, ma guarda, devo dire che l'analisi è abbastanza lucida. Insomma, i problemi della difesa della Juventus si erano già in qualche modo manifestati l'anno scorso. I due innesti di quest'anno, insomma, non sono innesti che non sono mai stati utilizzati, anzi è stato utilizzato, perdonate la voce, ma il clima mi ha fregato. Dicevo, i due innesti non sono mai stati utilizzati. De Sciglio, quando l'ha fatto, ha fatto dei disastri. Ouedes è un caro sconosciuto, insomma, senza Bonucci, che sarà questo Bonucci del Milan, non attirerà molto le simpatie delle folle, ma comunque un buon giocatore. Tutto questo messo insieme, in più il grado di immaturità di Rugani, che al terzo anno della Juventus continua a non riuscire a sfondare, se noi mettiamo tutto questo insieme all'età degli altri, 40 anni di Buffon, i 37 di Barzagli, i 33 con Acciacchi, di Chiellini, insomma, nessuno è eterno, sono dei campioni ma nessuno è eterno, e poi alla fine i conti tornano. Io mi volevo riagganciare, ti scuso, sì, solo a che cosa stavi dicendo tu in premessa sul mercato della Juventus. Beh, devo dire che quest'anno Marotta, fino a prova contraria, ha toppato in maniera clamorosa, insomma, anche in attacco, quelli che dovevano essere rinforzi non hanno rinforzato, per una spesa vicina ai 90 miliardi. E quindi 90 milioni, scusate. Io penso che questo alla fine poi porti a un qualcosa in meno della Juventus. Sì, poi voglio anche chiederti, tu che lo conosci meglio di tutti noi, secondo te cosa ha Bonucci? Ma adesso c'è il traffico, un minuto, torniamo. 800 24 00 24. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Sì, in realtà in queste partite forse non abbiamo dimostrato di essere la difesa sicura passata la stagione, però ecco, io credo che ogni qualsiasi riflessione vada fatta più avanti, perché oggi è prematuro in quanto sono state alcune defezioni importanti, alcuni infortuni, quindi vediamo. Comunque che dobbiamo di volta in volta migliorare, che dobbiamo applicarci ancora in modo più rigido, sicuramente sì. Questo Marotta pochi istanti fa ai microfoni di Premium, immediato per partita di Udinese Juventus che seguiremo insieme dopo il GR delle 18. Siamo con Vittorio Regia. Vittorio, ti giro alcuni messaggi che stanno arrivando. Il primo, a proposito della difesa, Rugani è un giocatore da Juve? Ma guarda, potenzialmente da Juve, io credo che in questo momento lui non abbia ancora espresso non le qualità tecniche, ma la maturazione, la determinazione, la cattiveria, lo spessore per poter vestire questa maglia. Mi sembra sempre timido, io vedo Rugani entrare in campo col ciuffo biondo ben messo e uscire dal campo con lo stesso ciuffo biondo ben pettinato, ben messo. Ma Vittorio, quindi, scusami, non è una contraddizione in termini quanto stiamo dicendo? Cioè, è un giocatore da Juve, ma dopo 3 anni non ha ancora capito come si gioca nella Juve. Ma infatti io ti sto dicendo, non ha c'è un problema, c'è, perché tecnicamente lo è, ma probabilmente non possiede quelle prerogative caratteriali per poter giocare nella Juventus, anche perché visto la condizione della Juventus in questo momento in difesa, sarebbe un folle Allegri se non lo facesse giocare, se si fidasse di lui. Probabilmente non si fida di lui. Poi un altro amico, io sono abbastanza d'accordo con questo messaggio. Il problema è che se non gioca Pjanic non gioca bene nessun altro, si spegne la luce. Beh, un po' è vero. Sì. Sono d'accordo con voi. Mi sembra che Pjanic sia l'unico capace di dare geometria e soprattutto profondità, cioè verticalizzazioni, a questa squadra che altrimenti gioca solo ed esclusivamente per linee orizzontali. Mentre non sopravvaluterei la presunta crisi di Dybala, non si poteva chiedergli di andare avanti ai ritmi delle prime giornate. 7 partite. Saluto a Vittorio Reggia, lo facciamo leggendogli che cosa ha detto Marotta alla domanda sulla partenza di Bonucci. Domanda: pentiti della partenza di Bonucci? Risposta: ha scelto lui di andare via, noi ora pensiamo ai fatti nostri e a migliorare quello che dobbiamo migliorare senza pensare alle questioni altrui. Tu che lo conosci bene, che cosa succede a Bonucci? Ma io soprattutto ha scelto lui di andare via? Ecco, appunto, io direi che diciamo che se lui ha scelto di andare via, la Juventus l'ha accompagnato alla porta. Bravo, esatto. ma ci può anche stare, credo che si fosse inclinato qualcosa almeno nell'ultima stagione. Inutile che ritorniamo sulle panchine col Porto, la discussione con Allegri. Io penso che ve la metto così, guarda, alla Juve manca Bonucci in questo momento e a Bonucci manca tanto la Juve, mettiamola così, insomma. Probabilmente era finita, ma con altrettanta onestà vi posso dire che forse con condizioni diverse Bonucci, che era un po' diventato il boss dello spogliatoio e forse non era più simpatico a tanti compagni, probabilmente avrebbe potuto continuare nella Juventus. Poi col senno di poi, insomma, è facile ragionare. Certo è che mi pare che Bonucci alla Juventus in questo momento stia mancando. Sì, ecco. E sta mancando clamorosamente anche al Milan, che se vogliamo è la notizia, perché che manchi alla Juve ci può stare, non c'è, era un pilastro della difesa insieme agli altri. Ma è clamoroso, io lo chiamo, poi ne parleremo anche dopo le 18, ci sono anche voci che dicono che si potrebbe a gennaio magari concretizzare qualche scenario clamoroso di mercato, non ovviamente un ritorno alla Juve, ma a proposito di Bonucci e il Milan, però io l'ho definito una crisi di rigetto da innesto, di Bonucci nello spogliatoio, nella difesa del Milan, qualcosa di clamoroso, Vittorio. Posso interrompere? Sì. Io penso che il padreternismo non faccia bene a nessuno, sai, quando uno arriva al Milan, non è proprio l'ultima squadra di questo mondo, anche se è in fase di ristrutturazione, con le stigmate del padre eterno, per cui ed è un difensore, per cui tutti si aspettano che faccia qualcosa sempre di straordinario, probabilmente questo non l'aiuta, anche è stato un errore avergli dato subito la fascia di capitano, ma perché? Perché è un acquisto da 50 milioni, 40 passa milioni della fascia di capitano, no. Ci sono stati degli errori da parte del Milan strategici, probabilmente c'è una crisi di rigetto di Bonucci, anche perché probabilmente Bonucci pensava di arrivare al Milan e a Milano e di passeggiare, una passeggiata di salute che invece non è stata, per le ragioni, tutto questo messo insieme ha portato al fatto che Bonucci non stia rendendo come deve rendere, anzi in questo momento sia uno dei problemi del Milan. Però io che lo conosco bene vi dico che su Bonucci, al di là di alcune atteggiamenti un po' particolari, motivatori, gli slogan con gli hashtag che lasciano un po' il tempo che trovano, insomma io penso che su Bonucci nessuno possa eccepire sulla qualità del giocatore e sulla determinazione del combattente. Grazie Vittorio. Ciao Vittorio. Grazie a voi. Ciao. Grazie Vittorio Reggio, abbiamo due minuti. Carlo da Bologna. Sì, buongiorno, mi fa piacere sapere che la Juve ha fatto un pessimo affare vendendo Bonucci, perché io quando l'ho visto con la fascia da capitano del Milan, ho 63 anni e sono tifoso del Milan da 58, ho avuto una crisi allergica, mi hanno dovuto dare l'antistaminico perché stavo veramente male. Un'offesa a dei grandi capitani, cito Franco Baresi, che forse magari qualcuno se lo ricorda. Ah, sì, però c'è anche da dire, Carlo, che tu parli di capitani di un altro Milan. È una cosa che per un milanista è una ferita al cuore, perché comperare un giocatore della Juve significa prendere una sola, pessimi affari non ne ha mai fatti la Juve, vendendo un giocatore. Si sono tenuti uno di 37 anni e vanno Carlo, a posso chiedere una cosa? Meglio Montolivo, capitano? Guardi, non è un discorso di capitano, qui hanno fatto meglio Montolivo, okay, sicuramente Donnarumma non poteva, ma perché l'altro caso è il caso Donnarumma. Abbiamo speso un sacco di soldi per rinnovare il contratto a questo ragazzetto che in porta fa letteralmente pena. Ha iniziato un campionato veramente, se guardate le pagelle, raramente ha preso 6. Poi andiamo a vedere chi sono i soci? E poi spendono 150 milioni e tengono un direttore di banda, perché Montella sarà una brava persona per l'amor di Dio, ma non ha mai vinto nulla. Sì, però sono tanti dentro questo Milan, perdonami Carlo, poi ti salutiamo perché abbiamo il GR. A parte Bonucci, sono tanti dentro questo Milan che non hanno vinto nulla, e del resto quando devi rifondare dopo 5 anni senza mercato è anche pensabile, probabile, cosa che è accaduta al Milan, che il livello qualitativo da cui parti sia basso. Il tema è se hai fatto meno errori possibili o se poi con la gestione ne hai aggiunti altri ad alcuni fisiologici di mercato. Ci fermiamo perché c'è il GR delle 18. 800 24 00 24. Ovviamente non ci siamo dimenticati di Napoli-Inter. Partiremo da lì. La domanda è: ma secondo voi l'Inter è da scudetto? Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Mi manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Tutti convocati. Che tipo di risultato spera? Pareggio. Pareggio? Ok. Le chiedo se dalle due squadre... Perché tutte e due un po' stanno perdendo, quindi pareggio. Vesino salta anche Reina, fa il tiro, salvataggio sulla linea, miracoloso di Alpiol. Napoli ha giocato una buonissima partita. Napoli. In certi momenti sembra di giocare con i figli di Goldrake, perché fanno delle robe, palla buttata in tribuna, sforbiciata, messa in terra, tutto di prima, vanno da quell'altra parte, noi palla sui piedi, nazionali come loro, non si sa uscire da un rettangolo di gioco. Attenzione al pallone all'indietro, Caglie Collo, la respinta 2 volte di Andanovic, miracoloso sulla seconda da terra. Ha trovato una squadra forte, si è difesa bene, Andanovic stasera ha fatto il fenomeno, abbiamo messo sotto un'ottima squadra per 90 minuti, stasera non siamo riusciti a concretizzare una supremazia che è stata abbastanza evidente. Spalletti l'ha insignito del titolo di ministro dell'economia, che ministro è Spalletti? Lo stasera della difesa. Se ha detto che mi difendo, va bene, perché lui mi costringe a difendermi, io mi difendo. Qualche volta vado all'attacco, anche perché l'anno scorso sono arrivato davanti a lui, per cui bisogna stare attenti. Ministro della difesa servirebbe anche alla Juventus. 8 minuti 45 secondi nel corso del primo tempo, Juventus sotto 1-0, gol di Perica. Mica male. Che merita di essere raccontato, perché l'Udinese ha strappato palla sulla tre quarti su un'azione di pressing, credo che tira, ma non sono sicuro, ha perso il pallone. Sì. Poi Perica però ha puntato Chiellini, l'ha saltato e ha messo con un diagonale. Juve adesso vicinissima al pareggio con un tuffo di testa di Mandzukic. E la sua conclusione viene rimpallata a meno di un metro dalla linea di porta, partita che è iniziata sotto la pioggia ma su ritmi altissimi, Udinese 1, Juventus 0. Apriamo il capitolo di Napoli-Inter di ieri, vi faccio sentire Spalletti a Premium quando, stufo dei complimenti, ha fatto uno show. Spalletti, perché fa quella faccia, Spalletti? No, gli stiamo facendo i complimenti. Ma non me li faccia complimenti, non mi interessa. Andiamo sulle cose vere, sulle cose pratiche. Cioè facciamo così. Ma ci arriviamo! Facciamo così, Spalletti, andiamo sulle cose pratiche. Scarichiamo tutto il peso sul nostro amico da casa. Spalletti, dopo aver pareggiato contro la squadra più forte del campionato, crede allo scudetto? Risponda sì, a Giovanni. Sì, sì, si vince lo scudetto. Oh. Noi vinciamo lo scudetto. Riccardo Ferri, ciao. Buon pomeriggio. Ciao, tu ieri sei stato testimone in diretta. Noi la domanda però la giriamo a casa, eh. Se dopo aver visto ieri sera il muro d'acciaio dell'Inter fate una riflessione sul fatto che possa o no vincere lo scudetto, la tua risposta qual è? La mia risposta è che l'Inter ha un progetto di 3 mesi e Napoli è un progetto che ormai ha una durata di 3 anni, quindi la differenza è sostanziale nell'organizzazione, nei meccanismi. È chiaro che Spalletti ha dovuto giocare in un certo modo, ha dovuto adattarsi un attimino alla situazione, però devo dire che rispetto alle partite precedenti l'Inter ha cercato di giocare, nel momento in cui aveva palla non la buttava via, cercava comunque di costruire un qualcosa e addirittura in alcune occasioni è andata anche vicino alla conclusione, quindi devo dire che qualche passo in avanti è stato fatto, ma fare un paragone adesso con il Napoli mi sembra un po' prematuro e poco come si può dire, poco propositivo. Realistico, per no, una che... L'Inter secondo me non è da scudetto, è certamente una serissima candidata al terzo posto e può essere che arrivi proprio lì, in questo momento è la terza forza del campionato, il progetto è iniziato un po' di tempo fa, i giocatori sono questi, l'anno scorso sembravano dei brocchi, quest'anno è arrivato un grande allenatore e fanno il loro, mi sembra però che l'Inter sia una cosa estremamente seria, gioca in modo estremamente serio, mi viene da usare questa parola. Anche ieri ha fatto una partita eccellente con le sue armi. Sì, è un po', diciamo, hai riassunto un po' quello che io ho detto. Mm. È chiaro che qualche passetto in avanti si vede, ma ci sono ancora tante cose da perfezionare, ma solo con il tempo e solo con degli innesti mirati l'Inter può crescere. Se si parla di scudetto, mi sembra un discorso ancora prematuro. Io credo che comunque per il secondo e il primo posto, in questo momento le squadre più attrezzate rimangono ancora Napoli e Juventus. In questo ordine. È chiaro che la Juventus ha un organico superiore a quello del Napoli e Napoli dipende molto dal percorso Champions, perché è chiaro che conosciamo la fatica e le energie anche mentali che si possono buttare in quella direzione e nel caso dovesse essere eliminata, non dimentichiamo che anche l'Europa League è altrettanto impegnativa. Esatto. Scusate, vi devo raccontare una cosa. Prima vi ho detto forse errore di che dire. In realtà chi consegna la palla sulla tre quarti all'Udinese è Rugani e se Rugani ne parlerà. Rugani, ne parlavamo prima con Vittorio Reggia. Poi io però ho una domanda da fare a Riccardo Ferri. Sì, anch'io ne avrei una. A me sia la Juventus, questa Juventus, che il Napoli, questo Napoli, a me sembrano due squadre all'ultimo ballo per motivi diversi. Cioè o quest'anno o mai più. Vale soprattutto per il Napoli. Io credo che l'anno prossimo salterà questo patto che è stato fatto tra i giocatori, rimaniamo ancora una stagione insieme per provare a vincere lo scudetto. La Juventus mi sembra una squadra a fine corsa per altri motivi anche anagrafici, cioè da Buffon a Barzaglia diversi giocatori smetteranno di ballare con il mondiale. Tutto è possibile, il tuo discorso è molto pertinente, ma credo che solo aspettando qualche mese si può sapere in effetti va di pari passo con la realtà. Io credo che il Napoli abbia una grandissima occasione quest'anno, cioè il fatto che probabilmente, come dici tu, l'Inter stia tirando indietro un po' il piede dall'acceleratore per vari motivi, non solo per quello che hai detto, ma credo anche per il fatto di aver perso Bonucci e aver perso la Juventus, insomma un po' tutte e due ci hanno perso e poi per tanti motivi che sono legati a delle scelte di mercato che non stanno dando i frutti. Mi riferisco a Douglas Costa, mi riferisco a Piazza che non è ancora rientrato, mi riferisco alle grandi responsabilità che sono addossate a Higuain e a Dybala, e quindi tutto questo non mi sembra ancora possibile che possa dare ulteriore linfa alla Juventus. Intanto ha pareggiato, intanto ha pareggiato la Juventus, autogol di Samir, clamoroso. Riccardo è uno che se ne intende di autogol, ma questo è venuto veramente bene. Su un calcio d'angolo è staccato al limite dell'area piccola, Samir e ha letteralmente incornato sotto l'incrocio dei pali. Io purtroppo non sto guardando la partita. Te la raccontiamo noi. Gol da grande attaccante, peccato che nella porta sbagliata. Sì, gol da grande attaccante, ma non uno di quegli autogol che sporca. No, non rocambolesco. Ha fatto un bel gol. L'ha presa proprio di testa dritta e ha fatto con la sua porta. No, tornando sull'Inter, Riccardo, secondo me però ha ragione Spalletti, insomma noi l'abbiamo sentito ieri, insomma, lui fiuta il trappolone, si infuria se sente parlare di scudetto, perché comunque l'Inter ha bisogno di viaggiare un po' ancora scarica di quella pressione. Sì, no, ma glielo ho detto anche in diretta, Luciano, io credo che lui stia facendo un grande lavoro da quel punto di vista. È un lavoro dispendioso, perché è chiaro che attira tutte le attenzioni su di lui, cerca comunque di sdrammatizzare. Altri allenatori magari meno capaci a gestire queste situazioni dopo la partita di Napoli avrebbero magari anche enfatizzato la prestazione, anche se non c'era tantissimo da enfatizzare, mentre lui è stato molto bravo a stemperare tutto, a spostare l'obiettivo che hanno puntato poi i giornalisti, giustamente, e gli addetti ai lavori, che ovviamente l'hanno identificato come una squadra che può essere l'antagonista alla Juve e Napoli, perché vive quotidianamente con la squadra, sa che la squadra sta dando dei grandi risultati, ma è una squadra ancora in costruzione, è un cantiere ancora aperto, e io credo che questo è un progetto che si possa completare nell'arco di 2-3 anni. Diventare una squadra veramente competitiva non solo in Italia ma anche in Europa. Hai un minuto per il traffico, ho due domande rapide su due difensori da farti. Sì, grazie, per il traffico volentieri, perché sono proprio per strada, grazie. Allora, traffico, intanto 1-1 a Udine tra Udinese e Juventus, gol di Perizza, autorete di Samir, siamo al 17esimo minuto, davvero un minuto, torniamo. I love this game. Tutti convocati. Convocati. 19esimo minuto, 1-1 Udine tra Udinese e Juventus, il gol di Perizza all'ottavo, clamoroso autogol di Samir al 14esimo, Chiellini pochi istanti fa è andato vicinissimo al gol del 2-1, ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Siamo con Riccardo Ferri. Allora, io ho domande su due difensori. La prima è su Skriniar. Scrive un amico: come fate a dire muro d'acciaio la difesa dell'Inter se il migliore è stato il portiere? Questo è Amedeo. Io su Skriniar mi sto rivedendo, perché in estate avevo ironizzato su quanto l'Inter l'avesse pagato dalla Sampdoria. Non so qual è la tua riflessione, insomma, su cosa sta diventando, Riccardo. La mia riflessione è che è un giocatore che ha sorpreso un po' tutti. Ha fatto un campionato discreto l'anno scorso nella Sampdoria e credo che quest'anno abbia dimostrato, pur salendo i gradini di San Siro, e solo chi li ha saliti può capire veramente cosa vuol dire giocare in quello stadio. Sta dimostrando di giocare con la stessa continuità, con la stessa attenzione, anzi, a mio avviso è anche migliorato anche nell'uno contro uno. Ieri ho visto delle cose nell'uno contro uno con Insigne, 2-3 volte gli ha preso palla temporeggiando, mettendosi bene col corpo. È un giocatore che legge molto bene le traiettorie, ha fisicità, e questa era risaputo, ma credo che sia migliorato tantissimo nell'uno contro uno e nel tenere la posizione. E devo dire che anche Miranda ne ha beneficiato nell'avere appunto un giocatore così attento, così puntiglioso come Skriniar. Quindi uno degli acquisti, secondo me, che hanno fruttato maggiormente finora. E l'altro invece è Bonucci. Io non so se hai avuto modo di vedere. Intanto 2-1 della Juventus. Ventesimo minuto, tuffo di testa di Khedira. Di testa l'Udinese non la piglia mai. No, non la prende mai. Di testa la Juve ha creato almeno tre occasioni nitide, più l'autogol di Samir, e adesso ha segnato. Quindi 2-1 per la Juventus, che ha ribaltato in 20 minuti il risultato di svantaggio per il gol di Perizza. Torniamo con Riccardo Ferri. Hai avuto modo di vedere l'espulsione di Bonucci? Montella la contesta, dice si prende spazio così in area, quella è un'espulsione televisiva. Che cosa ne pensi? No, credo che ci stava anche l'espulsione. Lì dipende molto dalla decisione dell'arbitro, ma credo che quando lui si è liberato con il gomito e non con una smanacciata, capito? Perché se tu apri il braccio e lo apri per proteggere o per spostare l'avversario di fianco, ha una valenza, ma se tu colpisci come ha colpito lui con l'avambraccio piegato nel tentativo di crearsi spazio sapendo che andavi comunque a colpire, io cioè, credo non che è una questione di altezza, perché Montella dice io ero basso, no, quelle cose lì non colpivo sul volto e quindi non scattava l'espulsione. No, in questo momento credo che l'espulsione ci stava rivista con il VAR, perché è chiaro che a velocità normale era veramente difficile prendere una responsabilità del genere, però vista il VAR, credo che sia l'espulsione ci possa stare. Intanto palo di Higuain, vai. Bonucci sta pagando un po' tutte le tensioni che circolano intorno al Milan, ha voluto prendersi carico di tante responsabilità ed è chiaro che è dimostrato che un giocatore, pur bravo che sia, pur avendo delle grandi qualità, messo in un contesto non organizzato, non può che subire. E Bonucci sta subendo come del resto avrebbe subito chiunque in una squadra che manca un po' di organizzazione. Quindi è inutile che si dica che basta la motivazione, basta avere un motivatore di fianco per cercare di sopperire a tutto. Io credo che ci vuole una squadra organizzata. E poi quando giocava in una squadra organizzata, in un contesto organizzato come la Juventus, aveva i suoi spazi da occupare e non si doveva prendere altre responsabilità. Adesso spesso volentieri deve giocarsi con l'uno contro uno, deve temporeggiare un attimo il passaggio perché non ci sono movimenti che magari prima gli venivano automatici intorno a sé, e quindi tutte le difficoltà si stanno un po' moltiplicando. E poi quello stadio pesa anche se uno ha giocato nella Juve, ha vinto scudetti, ha giocato in nazionale, gioca in nazionale. Grazie Riccardo. Ciao Ricky. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie a voi. Grazie Riccardo Ferri, c'è già il nostro prossimo ospite collegato che saluto, Pierpaolo Marino, ciao direttore. Buonasera. Intanto vi ho detto palo di Higuain, palo appena spizzato, però su una bella girata, rasoterra e Higuain dal limite dell'area di rigore, Juventus che si è svegliata, ha preso il pugno di Perizza e a questo punto sta dominando a Udine. Con Pierpaolo Marino parliamo un po' di Napoli. So che il direttore aveva detto aspettiamo il Napoli alla riprova della prima sconfitta. Non è arrivata, è arrivato un pareggio. Oggi ho letto anche un po' di critiche eccessive sul fatto che non sia arrivata la vittoria. Mentre invece secondo me il Napoli ha fatto un'ottima partita e ha confermato di meritare quel primo posto. No, ma infatti non è cambiato niente. Cioè secondo me il Napoli ha affrontato una squadra solida, tosta come l'Inter e ha fatto una partita sui livelli soliti, direi, solo che l'avversario era diverso da quelli precedenti, quindi vincere sempre non si può, per Paolo, vincere sì certo, sì, erano 13 vittorie consecutive comprese le 5 del finale dell'anno scorso di campionato, perché poi alla fine è la stessa squadra che ha giocato le 5 vittorie di prima e le 8 di quest'anno. E quindi ci può stare, ma comunque è una prestazione positiva quella del Napoli, anche perché l'Inter, secondo in classifica, è stata costretta a difendersi. È chiaro che l'Inter è una squadra che quest'anno deve essere considerata di pari categoria del Napoli, quindi è un risultato che ci può stare e il Napoli secondo me ai punti avrebbe meritato di vincere. Sì, poi c'è questa frase di Sarri sul fatto che la squadra sia motivata in campionato che in Champions, che è secondo me il punto su cui bisogna riflettere, perché chiede Laurentiis, e lo ha fatto prima di Manchester, chiede al turnover di fare dei cambi perché Inter-Napoli sarebbe stata una partita difficile, è anche comprensibile, ma spesso sono le valutazioni di un presidente, di un dirigente. Questa invece è la lettura di chi con la squadra lavora tutti i giorni, direttore, e io credo non sia sbagliato se il Napoli ha più motivazioni e ha più in testa il campionato. Ma sì, perché i giocatori non è che gli puoi cambiare la testa, a volte non ci riescono neanche gli allenatori a cambiare la testa dei giocatori, figuriamoci i dirigenti. E i giocatori probabilmente hanno parlato fra di loro, si confrontano, e io credo che giustamente pensino che sia più abbordabile la vittoria dello scudetto che non quella della Champions, e quindi anche inconsciamente in Champions, per quanto è una passerella che fa piacere a tutti, no. In campionato, l'obiettivo mentale del Napoli, della squadra, ora prescindiamo da De Laurentiis, da Sarri, io credo che sia il campionato, la squadra crede di vincere lo scudetto, sì, c'è, da c'è questa in testa. Sensazione. Oh, intanto ma sta succedendo di tutto a Udine, espulso Mandzukic, proviamo a ricostruirla così, su un attacco della Juventus, traversone basso di Higuain, Mandzukic c'è andato insieme ad un difensore dell'Udinese, sinceramente in questo momento non l'ho riconosciuto, c'è stato un contatto, l'arbitro ha fatto correre, l'arbitro che è Doveri, ci sono state le proteste dei giocatori della Juventus che chiedevano il calcio di rigore, Doveri si è acceso un parapiglia, Doveri ha ammonito Mandzukic e il giocatore dell'Udinese che avevano battibeccato, fra parentesi insomma era calcio di rigore netto se proprio devo essere sincero, Mandzukic l'ha mandato a quel paese e Doveri ha estratto immediatamente anche il secondo cartellino giallo, a quel punto non poteva fare un'altra cosa. E a quel punto ha cacciato Mandzukic. Dimmi come uno ci sarà con da parlare del VAR, eh? Ma no, lascia stare a rigore, spiegami come uno con l'esperienza e il carisma di Mandzukic si fa cacciare ma dal io campo credo al che sia il nervo scoperto. Minuto, ecco, era lì Adnani, il difensore dell'Udinese, credo ci sia il nervo scoperto sul VAR. Perché è un episodio simile ad altri rigori che all'inizio di questa stagione sono stati dati contro, sì, contro la Juventus. Ma lascia stare il rigore, hai appena preso il giallo, mandi a fare in culo l'arbitro platealmente davanti in mondovisione. Cioè, no, Doveri è chiaro che non può non tirare fuori il secondo giallo. Non so giallo. Se hai avuto modo di vedere l'immagine. No, perché stavo parlando con voi e mi sono allontanato dalla TV. E allora ci sarà da discutere, oggi si è discusso molto di VAR perché ne ha parlato molto anche Montella che ha detto io mi gioco la carriera e allora bisogna essere perfetti, c'erano due calci di rigore per il Milan e poi ha contestato l'espulsione di Bonucci e quindi insomma c'è poco da fare, di VAR si continua a parlare e non finirà qui. Io credo però che il ragionamento che stavamo facendo per Paolo Marino sulla motivazione maggiore del Napoli in campionato e non in Champions alla fine avrà anche una ricaduta sulle scelte di Sarri, perché ieri Insigne e Mertens erano oggettivamente stanchi e la stagione è ancora lunga e il Napoli ha una rosa di straordinaria qualità ma non profondissima. No, il Napoli c'ha anche una rosa qualitativamente più lunga degli anni scorsi, però chiaramente non è una squadra pronta ancora per affrontare i due obiettivi contemporaneamente e comunque diciamo che i giocatori della sua rosa sono idonei per non far sentire sobbalzi in caso di mancanza dei titolarissimi in campionato, ma in Champions League sono troppo teneri e l'abbiamo visto con Zielinski che non è la stessa cosa subentrare in una partita o piuttosto che iniziare dall'inizio con il peso delle responsabilità in una partita tipo Manchester, insomma sono cose completamente diverse, però ripeto il Napoli sarebbe anche attrezzato, poi va detto anche che gli equilibri di una squadra per quanto possano essere buoni i rincalzi in un turnover piuttosto variegato fanno sempre perdere di peso alla squadra, quindi non so se sia giusto l'intervento di De Laurentiis, sono piuttosto perplesso perché queste cose andrebbero demandate ai tecnici che non hanno bisogno di consigli in questo senso, anche perché vivono l'aria dello spogliatoio ogni giorno e sanno che ripercussioni possono avere sostituzioni di giocatori anche in Champions, perché poi una partita di Manchester piace a tutti viverla, non è che chi esce in funzione del turnover sia contento. Sì, sono le partite per cui si lotta un anno per andare l'anno dopo a giocare a Manchester. Grazie direttore. Buona serata. Grazie per Paolo Marino. Nicola da Napoli. Nicola. Buonasera, Nicola da Ischia. Vai. Faccio i saluti al grande ex direttore del Napoli, lo stratega stratosferico del calcio mercato nazionale e internazionale per Paolo Marino che ci ha portati dalla C alla Champions. Lo saluto, mi dispiace non avere Andiamo alla domanda. La domanda era per quanto riguarda il Napoli, visto l'affaticamento di Mertens e manca il classico attaccante per sostituire Mertens, Zapata è cresciuto tantissimo negli ultimi due anni, non era buono che rimaneva a Napoli per poter essere il sostituto ideale di Mertens, oppure in alcuni frangenti di alcune partite che non si sbloccano come quella di ieri sera, che l'Inter, parliamo di una grande Inter che è venuta da provinciale a Napoli, si è difesa bene, non ha subito gol, però se entrava il primo poi l'Inter ne prendeva 4-5 perché era costretta. Era costretta ad aprire. Questo non lo so, Nicola, cioè, perché lo pensavo. Sì. Il campionato italiano non lo vedo all'altezza della situazione. Lo pensava Nicola anche la Roma, ma l'Inter quest'anno è fatta d'acciaio, credo non avrebbe presi 3-4. Su Zapata io l'avrei anche tenuto, ma in realtà c'è già Milik per quel ruolo lì, e non è che De Laurenti e Sarri potessero sapere che si sarebbe riproposto un infortunio lungo. 31esimo, 2-1 per la Juventus a Udine. Juventus però che in 10 uomini per l'espulsione di Mandzukic. Udinese che attacca su un calcio d'angolo. Juventus che libera. Torniamo fra un minuto, parliamo delle romane. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Convocati. Stiamo lavorando anche per lo scudetto, come dice Monchi. Lei sottoscrive? Guarda che siete voi gli addetti ai lavori che parlate un giorno dello scudetto, un giorno no. In Italia cosa manca è l'equilibrio. Lavoriamo sotto sotto per migliorare, per crescere, poi valuteremo se saremo veramente o meno da poter lottare per lo scudetto. Intanto io mi gusto e sono contento della crescita costante di questa squadra. In futuro, tra qualche partita in più, magari parlerò in maniera differente. Questo di Francesco oggi dopo la vittoria preziosissima a Torino, un po' come Spalletti, allergico alla parola scudetto. Saluto il direttore di Radio Sportiva Michele Plastino. Ciao Michele. Ciao a tutti, buon lavoro. E da scudetto no, anche se vengono le bolle di Francesco. La classifica dice che la Roma in questo momento ha 18 punti, potenzialmente 21. Se fossero 21 ne avrebbe di fatto uno in meno della Juve che sta vincendo a Udine. Fin dall'inizio del campionato la Roma era considerata una grande alternativa alla Juventus, cioè dell'ultimo campionato. Io Francesco sta lavorando molto bene, sia sistemando tante cose. Credo, malgrado i numeri non dicono questa cosa, perché la Roma ha subito pochissimi gol, che nel momento in cui lui registrerà meglio non tanto la fase difensiva, ma gli uomini della linea di difesa, la Roma potrà dire certamente la sua. In un campionato che è molto incerto. Sì, e dove tra l'altro davanti si sta correndo a un ritmo altissimo, perché questa sera, pensate, la linea Champions, la linea del quarto posto potrebbe stare a 22 punti su 27. 22 punti su 27 potenziali, stiamo parlando veramente di un ritmo altissimo. Intanto Kolarov, su cui tanti avevano delle perplessità, Kolarov oggi ha messo la seconda punizione decisiva, gran gol, da 6 punti. Gran gol di Kolarov. La linea che dicevi tu, si sposti in avanti, è un prodotto di questo campionato, per cui insomma si giocherà sui confronti diretti, e chi sta dalla parte destra della classifica conta poco per quelle del piano di sopra. Michele. Eccolo. Sì, sono d'accordo, anche se poi alla fine vedrai che se il campionato si giocherà su un punto o due, magari l'inciampo proprio con una considerata piccola potrebbe essere decisiva. Per il momento però il campionato dice proprio esattamente quello che stava dicendo voi. Allora vi do la classifica del mini campionato a 6, Napoli, Juve, Inter, Roma, Lazio, Milan. Guarda, ce l'abbiamo qui, bella calda. L'abbiamo sfornata. Allora, Napoli-Inter 7 punti in 3 partite, Lazio 6 punti in 3 partite, Roma 3 punti in 3 partite, Juventus e Milan 0. La Juve ha avuto soltanto un confronto diretto fino ad oggi, quello perso in casa sabato scorso contro la Lazio, e anche su questo dovremo riflettere, sul diverso peso del calendario fin qui tra la Juventus e il Napoli. Ad esempio Napoli che di partite così ne ha fatte 3 e 2 in trasferta entrambe all'Olimpico contro Roma e Lazio. Scrive un amico: se stasera Lazio vince, anche la Lazio si può aggiungere alla corsa scudetto. Michele, guarda, già il fatto che voi l'abbiate citata tra le candidate, già il fatto che nei titoli anche oggi spesso viene citato questo fatto, cioè che diventa importante la partita con il Cagliari di questa sera per sistemare e collocare la Lazio in un certo punto della classifica, questo credo sia il grande merito di Inzaghi. perché sinceramente non era questa l'idea di Lazio che c'era all'inizio del campionato. Però a questo punto sembrerebbe veramente un campionato dove tutto sia possibile, anche se ancora metto in pole position, a parte la Juventus per la storia, il Napoli, che è la squadra che sta giocando molto bene. Io, tu lo sai, adoro la Lazio, Michele. Adoro la Lazio, ma non perché la squadra più effettiva, lo dico tutti i giorni. È una squadra estremamente sottovalutata. Da scudetto, no, non scherziamo. Da corsa per la Champions League, certamente sì. La Lazio è una grande squadra, corta dal punto di vista qualitativo. Però è una squadra allenata in maniera eccellente. È una squadra che ha anche degli eccellenti giocatori, perché tu lo sai, De Vrij, Milinkovic Savic, Immobile, posso andare avanti quanto vuoi con. Quanto vuoi, fare 5 o 6 nomi di questo elenco che sono dei top player e potrebbero giocare in qualunque grande squadra europea. Guarda, al di là del vecchio tifo, che tra l'altro è ultimamente messo molto in discussione nel mio interno, devo dire che invece sto scoprendo, e questo è merito di Tare, degli ultimi 2 anni sicuramente del direttore sportivo, che la Lazio anche nelle alternative sta dimostrando di esserci più di quanto noi pensavamo all'inizio, perché il giovane Murgia è un'alternativa che ormai è diventata una realtà, il Cangego, il centravanti di riserva, dimostra che ogni volta che entra comunque dice la sua. A centrocampo ci sono anche gli uomini, in difesa ci sarebbero se non fossero inguaiati un po' fisicamente, quindi io credo che se la Lazio si dovesse trovare in una certa posizione a gennaio è lì che Tare dovrebbe lavorare, però ripeto, sto notando che anche nelle alternative questo giovane, tra l'altro difensore, Felipe, in questo momento sta dimostrando di essere uno vero e ci sorprende il fatto che sia arrivato in Italia, poi è stato collocato a Salerno in Serie B, con tutto il rispetto, ma dove oltretutto giocava anche poco. Invece ho notato delle qualità di questo giocatore che mi fanno pensare che era stato sottovalutato, così come era stato sottovalutato Luis Alberto. Ovviamente la sottovalutazione di Luis Alberto, che è uno dei giocatori che si sta mostrando di più in questo campionato, derivava dal fatto che la Lazio l'aveva preso come esterno in sostituzione di Candreva, in realtà invece il giocatore si è dimostrato fortissimo in altri ruoli. Era sottovalutato anche Inzaghi, a proposito, era destinato alla Salernitana. Mi viene in mente che le seconde squadre aiuterebbero tutti i club, perché di fatto la Lazio, la seconda squadra, ce l'ha, aiuterebbero tutti i club magari a scovare giocatori che sono più pronti di quello che ci immaginiamo. Grazie Michele. Ciao Michele. Grazie a voi e buon lavoro. Soltanto un'aggiunta: se però nelle seconde squadre i giocatori che appartengono alla prima vengono fatti giocare. Ah, certo, perché sennò diventa tutto estremamente complicato. Non lo dite a Salerno che si tratta di una seconda squadra, grande orgoglio. Assolutamente, ma giustamente. Grazie Michele Plastino. Grazie a voi. Grazie Michele Plastino, 41-50 sul cronometro a Udine, 2-1 per la Juventus sull'Udinese, Juventus in 10, Udinese che sta attaccando e crede evidentemente nella possibilità di tornare al pareggio. Saluto Roberto Ungaro, così apriamo la pagina dei motori. Ciao Roby. Ciao Giovanni, ciao Carlo, saluto tutti. Allora, abbiamo 2 minuti prima del traffico, proviamo a fare un po' il riassunto di cosa è successo questa mattina, ore 7, ora italiana, in Australia. Marquez, sesta vittoria, terza delle ultime 4, Rossi Vignale sul podio, Dovizioso sparito, 13esimo, mondiale praticamente finito, perché credo che 33 punti e 2 gare dalla fine siano sostanzialmente una sentenza, no? Hai perfettamente ragione Giovanni, purtroppo Ducati non c'è stata, né lui né Lorenzo, e con un Marquez così non c'è niente da fare. Siamo stati criticati spesso di non dire il vero valore di Dovizioso, e invece è un po' così, on off, quando c'è, per l'amor di Dio, è una cosa strepitosa, però quando scompare così non si può giocarsi il mondiale. Appunto. Marquez strepitoso, è stata una gara che sembrava una gara di Moto3, sempre tutti attaccati, un quartetto incredibile con Zarco che andava a infastidire, Vignale, Zarco, Marquez e Valentino su quella pista che è magica. Valentino con questo secondo posto, io direi una delle più belle gare della stagione. Marquez ancora una volta aveva tutto da perdere, era lontano Dovizioso e invece ha battagliato, ha rischiato, è stato lì, tanti contatti, segni di gomma nera sulle tute di Valentino, codone rotto di Marquez, se ne sono date di santa ragione, sembrava veramente non fa 0-0 Marquez, Marquez, ragazzi, no, cosa possiamo dire di fronte a uno così? No, diciamo che oggi ha legittimato il mondiale, perché poteva accontentare Barça invece ha deciso di vincere e di prendersi praticamente niente. Il mondiale da protagonista assoluto. No, ci sono tante cose da dire, Roberto. Stai lì, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Se la giocano in volata Rossi e Zarco con Vignales in terza posizione. Marquez c'è e vince il Gran Premio d'Australia. Dietro, andiamo dietro. Chi passa è? Rossi, Zarco quarto, Kraslo quinto, sesto Iannone, settimo Miller, ottavo Rins, nono Espargaró, decimo guarda Schmidt, Redding e Pedrosa davanti a Dovizioso. Non ci voleva. Un po' una grande illusione, a parte la posizione logicamente che abbiamo perso un sacco di punti, è la conferma del limite della moto che non gira, che diciamo è ancora il nostro lato negativo. Quest'anno siamo riusciti a migliorare vari aspetti, siamo riusciti ad essere competitivi per tutta la stagione, però quando arrivi in queste piste dove non ci sono delle gran frenate, ci sono curvoni molto lunghi e che bisogna frenare poco, si amplifica il nostro limite. Infatti dai, un po' tutte le Ducati hanno fatto fatica questo weekend. Era importante qui finire davanti Dovi, perché sappiamo che la Malesia pure soffriamo un po'. La Ducati là va molto forte, anche la Yamaha. La moto adesso è un'altra moto di quella che abbiamo fatto in inverno, così vediamo com'è. Onestamente oggi mi fa più contento sentire il 33 che la parola vittoria. Così. Tanto finito il primo tempo a Udine, e negli ultimi 90 secondi l'Udinese è andata due volte vicinissima al pareggio. Prima grande parata di Buffon su Nuitnik e poi ancora Buffon su Alfredson, con palla che ha danzato sulla linea di porta. Secondo tempo che promette spettacolo. Roberto Ungaro, torniamo invece sul Gran Premio d'Australia. Questa mattina a Phillip Island, perché la Ducati e Dovizioso sono spariti? Ce l'ha detto lui, Andrea, la moto non gira quando ci sono questi curvoni. Phillip Island è una pista molto impegnativa, è la più bella pista del mondiale, non solo perché è affacciata sull'oceano, ma perché ha un dislivello altimetrico, curve velocissime e c'è tanto vento, l'impronta a terra è veramente labile, anche le immagini sono spettacolari, avete visto che roba, erano sul filo del rasoio e lì non c'è mai stata la Ducati. Non può una moto così, dal potenziale enorme che ha, non esserci, andare a corrente alternata per puntare al mondiale. Esatto, non è possibile lì. E non è un discorso di gomme, ragazzi, perché devi andare detto, oltre l'ostacolo, Roberto. Esatto. Per battere Marquez devi andare oltre l'ostacolo, oltre i limiti della moto, oltre la soglia accettabile del rischio. Devi fare un miracolo, devi stuzzicarlo, devi mettergli pressione psicologica, perché Marquez potrà solo perdere se sbaglia. Lo devi mettere nella condizione, gli si chiude la vena. Avete visto con Zarco, ricordiamoci di questo nome francese, perché è stato tutta la gara lì protagonista. Lui passa all'interno di una traiettoria impossibile ad altri. È vero che sportella, cioè entra a gomiti larghi e non si fa tanti scrupoli, però ragazzi, le corse sono queste, quindi bene che ci sia un outsider, ne sentiremo parlare di lui. È risorto un po' Iannone, lo abbiamo visto protagonista, però un sesto posto secondo me non è ancora quello. È risorto Valentino. E Valentino, ragazzi, su questa pista vedere male è magia. Se pensiamo a cosa ha fatto in passato, e comunque anche lui è stato della battaglia, perché ha accettato la sfida, non si è accontentato, ha cercato con le unghie questo podio, secondo posto gli è arrivato, è fuori dal campionato, ma sta mettendo le basi per l'anno prossimo. Così lui dice, ragazzi, ci sono anch'io nella partita, non pensiate che io sia già un outsider per il podio e per il campionato. E quindi questo ravviva un po' quello che andremo a vedere. 33 punti sono troppi. Marquez, ripeto, dovrà difendersi in Malesia, pista Ducati, ma ormai non ce n'è. Arriverà a Valencia con troppo vantaggio. Ma potrebbe anche vincerlo prima, credo, no? Anzi, credo che quasi certamente accadrà Sepang, dove, se non sbaglio, è sufficiente a Marquez perdere non più di 7 punti da Dovizioso. E quindi avete detto tutto. È anche vero che Marquez sta andare in una sola mappatura nella testa, quella al 100%. e quindi, però avete visto, tu dici potrebbe oggi cadere. Cadere no, però può andare nel pallone. Oggi si è girato due volte a cercare in gara, è una cosa impossibile da farsi. Due o tre volte si è girato, è stato lì. Quando c'era Zarco sapeva che era pericoloso ed è rimasto dietro, non si è messo a rischio. Poi quando ha visto che invece doveva andarsene, ha preso e allungato. Quindi ha gestito, è molto maturato, c'ha testa, non puoi più dire che va a vita persa. Ragazzi, questo è un campione, ragiona, ha una grande moto, li lascia usare e mette il cuore oltre l'ostacolo. Non si può dire niente. E insomma, questo è il racconto. Oh, dobbiamo dire che potrebbe tornare invece un italiano a vincere il titolo, un titolo mondiale. Stiamo parlando di Franco Morbidelli. Manca quanto, Roby? Manca poco, con l'ultima una battaglia. È che Morbidelli, quest'anno 8 vittorie, una cosa incredibile, finalmente lo vediamo e se lo merita tutto. Però Morbidelli, cioè, fino alla fine deve tenere e non deve mollare niente, anche perché Morbidelli è il primo titolo e quindi non ha l'abitudine a gestire questa situazione. Di testa è ancora acerbo, se vogliamo, anche se ha dimostrato tutto il suo potenziale. E l'anno prossimo, ragazzi, MotoGP, attenzione a lui. E avete visto anche la gara dell'australiano, cioè Miller cosa ha fatto nei primi giri? Davanti, incredibile, con una Honda clienti, è rimasto lì, poi ha perso il treno, però... speriamo che cambiando moto anche lui l'anno prossimo si rimescolino un po' le carte in attesa di un 2019 dove i contratti finiscono e allora ne vedremo delle belle. Perché lì i nomi cambieranno, con i brand importanti. Abbiamo davanti un grande mercato nel 2019. Sì, 2019. Manca. Va bene, grazie Roberto. Ciao Roby. A voi, ciao. Grazie Roberto Ungaro. Graziano Rossi ne ha sempre parlato benissimo. Questo ancora 4-5 anni fa. Diceva, attenzione a Morbidelli, a questo pilota italiano sarà uno, è uno forte e uscirà e adesso lo stiamo scoprendo. Piloti italiani che non vincono un mondiale dal 2009. Da un po'. Valentino Rossi. 2009 Valentino Rossi. Dannati spagnoli. Poi questa sera, ore 21, ci sarà la Formula 1, Gran Premio delle Americhe ad Austin. Hamilton in pole position, Vettel che ha incassato due decimi e qualcosa. E poi Bottas, Ricciardo, Raikkonen, Verstappen. Anche qui abbiamo l'impressione di essere vicini all'epilogo. Vittorio da Milano, no, non c'è, è caduto. Abbiamo l'impressione di essere a un passo dall'epilogo di questa stagione. Sì. Non vedo molte alternative. Si tratta di Hamilton, dovrà timbrare il cartellino esattamente come Marquez, cosa che accadrà secondo me entro breve. E niente, alla Ferrari comunque resta una grande stagione ricca di promesse per il futuro. Torno al resto dell'idea che più di così era impossibile chiedere alla macchina rossa. Un po' più di competitività, di affidabilità, sì, questo certo, però quando ti spingi al limite come ha fatto la Ferrari succede anche questo. Allora, noi ci fermiamo qui, negli appuntamenti continueremo a raccontarvi di questa giornata di calcio che non è ancora finito. Tra qualche istante inizia il secondo tempo di Udinese e Juventus, che sono andati a riposo con la Juventus avanti per 2-1, ma in 10 uomini per l'espulsione di Mandzukic. Poi questa sera 20:45 c'è Lazio-Cagliari, alle 21 come detto c'è la Formula 1, tutto nei nostri GR. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Fresani e Andrea Roccabella, che si sono alternati in regia. Noi torniamo domenica alle 17 con tutti i convocati weekend, domani invece dopo il GR delle 14 con tutti i convocati. Ciao. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!